piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Volevo dire che è vero che l'innocenza si perde gradualmente. Io una bella fetta della mia innocenza l'ho persa tutta in un botto. Ho avuto una relazione lunga 3 anni con una persona molto difficile, con tanti problemi. Io venivo da un contesto con meno problemi, mi sono fidato e diciamo ho provato ad aiutarla, ma è finita molto male, tante cose. Due tradimenti, anche uno sfruttamento un po' economico con dei furti e calunnie abbastanza pesanti, molto pesanti, quindi diciamo che poi è finita con un gran botto e ci è voluto un po' di tempo per riprendermi, ma alla fine è stato meglio così. L'innocenza è un termine astratto. Oggi l'innocenza è considerata solo nel campo giuridico, presunto innocente, innocente erratamente considerato colpevole, condannato in quanto innocente. Sono innocente, non ho fatto niente. Ma l'innocenza ha un'accezione ben più vasta, è un termine che a seconda dei tempi si declina in maniera differente. Perché apro con l'innocenza? Perché, come spesso faccio periodicamente, mi piace riflettere su quello che considero l'indicatore più potente della opinione generale che abbiamo messo a punto in questa trasmissione, che è la formula dei 30 secondi. Qualcuno la prende come un escamotage divertente per ridere un po', per far raccontare amenità agli ascoltatori. Io non lo prendo per niente con superficialità. Per me è una sorta di porzione aura della possibilità di esprimere pensiero che abbiamo casualmente, non per nostro merito, ci è venuto fuori così un giorno, l'abbiamo poi messo a punto, specializzato, andando avanti nel tempo, per estrarre fuori dall'opinione generale delle persone che distrattamente possono ascoltare la radio, essere occupati nelle loro funzioni quotidiane, quello che è il punto medio del sentire rispetto a un problema nella contemporaneità. A me piace, sono appassionato, sono interessato, sono profondamente e sinceramente attento a capire quella che è l'essenza dell'epoca in cui sto vivendo. Non ho nessun tipo di nostalgia del passato e il futuro mi accarezza la fantasia alla stessa maniera in cui mi dà attenzione e frenesia capire il tempo che sto vivendo. E per capire il tempo che sto vivendo non trovo occasione migliore, modo migliore, che fare delle domande ai miei ascoltatori e avere una risposta in tempi standard, chiusi in una cornice che permetta che rispondere di tutti comunque e corrisponda a una sorta di regola non scritta ma sicuramente metabolizzata da voi per dare il senso rispetto a un tema di quello che oggi si sente. Io da piccolina avevo una mamma e un papà che si volevano molto bene, erano felici, andavano a ballare, si divertivano, non mi facevano mancare nulla, ma mio papà però non dormiva a casa con noi. Io lo vedevo la sera, poi andava via, ma non mi sono mai chiesta il perché. Un giorno a 13 anni scopriamo che mio papà era malato e dopo qualche giorno lui mi dice: ti presento tua sorella. E al che mi presenta questa donna che aveva quasi l'età di mia madre, e da lì scopro che mio padre aveva un'altra famiglia, che poi era la sua famiglia ufficiale, una moglie, una figlia, e in parallelo aveva quest'altra famiglia che eravamo io e la mia mamma. Questa è una tragedia, scoprire che la persona che tutti i giorni viene presentato in famiglia come tuo padre, secondo una consuetudine non sicuramente tipica ma ormai accreditata, sedimentata in quella famiglia, la sera, al contrario di ogni padre di famiglia banalmente normale che la sera torna a casa, saluta tutti, cena, sta con i figli, sta con la moglie, in realtà lui a quell'ora se ne va. Quando un comportamento diventa normale in una famiglia, quella diventa la regola. Ci sono famiglie in cui è terribilmente normale il fatto che il padre picchi i figli, maltratti la madre, o altre famiglie dove è normale il fatto che entrambi i genitori lavorino e vedano poco i figli. Altre famiglie dove è normale che tutti e due, per il fatto che siano benestanti e non ne abbiano bisogno, stanno la maggior parte del loro tempo in casa. Altre famiglie si viaggia, si cambia casa continuamente a seconda degli interessi e dei doveri dei genitori. Insomma, non esiste una norma, non esiste una regola, come non esiste una regola nel considerare quell'agglomerato di esseri umani che ancora chiamiamo, secondo un termine nostalgico, famiglia. Famiglia è laddove ci sono delle persone che si vogliono bene, hanno un progetto assieme e, se possibile, allevano dei cuccioli e li portano all'autonomia. L'innocenza in questo caso, la perdita dell'innocenza, è capire questo modello che sembrava normale, in realtà in sé aveva una radice avvelenata, c'era qualcosa di profondamente nefasto per tutta la famiglia. In realtà questo padre, con il consenso della madre, con la consapevolezza della madre, gestiva un'altra famiglia. Ora, in un momento di apertura mentale, se ciò che aveva preconizzato una decina di anni fa Jacques Attali su l'amore che in realtà sarebbe stato l'unico collante degli agglomerati umani, o la voglia di stare assieme, quindi sarebbe stata una normale famiglia allargata in cui i figli sapevano che avevano altri fratellastri, in cui la mamma aveva possibilità anche di frequentazione dell'altra mamma, degli altri figli, e probabilmente sarebbe stato un uomo con due famiglie, ammesso in un modello teorico e iperbolico. Questo però non può accadere perché esistono delle regole nella società, esistono delle leggi, esistono dei regolamenti, esistono dei sistemi di costume acquisiti e condivisi, per cui questo può essere fatto soltanto nell'inganno, nella menzogna e nella clandestinità. Quindi la perdita dell'innocenza per questa ragazza, vedete come si declina diversamente il concetto, alla luce delle regole che in qualche maniera alimentano il nostro quotidiano e scandiscono il nostro quotidiano, per lei l'innocenza era pensare che quello fosse un sistema perfetto, perlomeno accettabile, perlomeno quello che lei aveva di famiglia. Scoprire che in realtà la famiglia era tutt'altra cosa, perlomeno nella convenzione accettata e seguita dalla maggior parte delle persone, quindi la perdita dell'innocenza ed entrare nell'angoscia di aver vissuto sempre in un inganno. Sì, guarda, io sono stato collaboratore di un ministro da 28 a 31 anni. Durante quel periodo venivo, come dire, pressoché tutti i giorni salutato, in qualche caso anche omaggiato da direttori generali, personalità, eccetera. Poi, siccome cambiò governo e il ministro uscì dal governo, naturalmente io ritornai a fare il lavoro che facevo precedentemente. Quelle persone che avevo incontrato fino al giorno prima, no? E che quando mi vedevano, buongiorno dottore, come sta, come va, come è, eccetera, praticamente, no? Io rimasi perplesso perché mi incontravano e nemmeno mi salutavano, cioè giravano la testa dall'altra parte. Quello per me fu un disinganno, non immaginavo a quell'età, no? Che le persone potessero comportarsi in questa maniera. Guardate, questo ascoltatore usa un termine arcaico, antico, dal profondo senso filosofico. Essendo probabilmente anche lui del meridione d'Italia, lo usa perché è uno spagnolismo, dice il disinganno. Il desengagno è alla base proprio di tutta la chiave filosofica, teorica, teologica che ha alimentato comunque il barocco, la controriforma, il disinganno, l'accorgersi comunque quale sia l'aspetto fallace della realtà, il sogno che copre la realtà. Tutta la vita è un sogno, come diceva Calderon della Barca. Infatti, alla base del disinganno di questo signore è che il prestigio di cui si sentiva omaggiare da parte della gente comune era legato soltanto al ruolo del suo capo. Lui era il portaborse di una persona molto influente e per questo tutti lo omaggiavano. Quindi la chiave dell'accettazione sociale era distorta, viveva una realtà distorta, una realtà illusoria, totalmente virtuale. Era considerata una persona degna di rispetto perché degno di rispetto era il suo capo, la persona che lui seguiva. E quando questa persona ha perso questo suo posto di rilevanza, improvvisamente è come se fosse calato il velo dell'illusione e si vedesse la realtà per quello che è. Improvvisamente era una persona qualunque che nessuno considerava. A me è successo in uno scantinato, avevo 12 anni, con la cugina di un mio amico più grande di me di 4-5 anni e fu lì, punto, basta, la cosa più bella che mi è mai successo. Breve, lapidario, conciso, irrevocabile, la perdita dell'innocenza proprio nel senso biblico, la stessa innocenza che noi immaginiamo nelle nostre malizie adolescenziali, anzi soprattutto fanciullesche, nell'apprendere questa storia del serpente, della mela, di Adamo ed Eva, che poi scoprivano il pisello e la passera e non si capiva perché. Perché? Perché avevano consumato quel tipo di perdita dell'innocenza, che è esattamente quella che in maniera tradizionale, familiare, grottesca, legata anche alla nostra commedia, legata a tutto un filone di cinematografia che andava molto negli anni 70, lievemente pecoreccia, un po' familiare, un po' basata sulle umidità adolescenziali, la perdita dell'innocenza sia con la cugina, si consuma in famiglia, può essere la zia o può essere la cugina. Appartiene a un mondo lontano, arcaico, detestabile, cose che oggi nemmeno si può pensarle senza sentirsi infame, fuori del tempo. Però questa idea che non c'è cosa più divina che farlo con la cugina, che è sempre circolata negli ambienti più detestabili della nostra fosca e remota fanciullezza, della nostra adolescenza turbata, ecco, qua in realtà si realizza. È l'apoteosi di qualcosa di onirico, di lontano, di inimmaginabile, che probabilmente nemmeno è accaduto. Ma lui è convinto che la cugina più grande in età, abbia preso la sua innocenza come, secondo una tradizione orale non scritta ma molto vagheggiata, accadeva nelle famiglie. Il compito di indirizzare verso la maturità sessuale un giovane rampollo poteva essere o da parte, nel caso ci fosse stato potere d'acquisto sufficiente, di qualcuno compiacente, facente parte dello stuolo della servitù, quindi ci pensava la domestica, la serva, come si diceva allora, che aveva il compito appunto di iniziare l'amore ancillare, come si diceva, l'amore ancillare era quello che si aveva per le ancelle. Le ancelle, fra i tanti compiti, avevano anche quello, come appunto Briseide per il Pelide Achille e via dicendo. In questo caso la perdita dell'innocenza corrisponde all'entrata in un mondo in cui l'innocenza diventa il baluardo più ambito di ogni lussuria. Ho perso la mia innocenza quando ero in terza elementare e i miei compagni di classe mi hanno chiamata figlia di puttana perché e anch'io sono nata fuori dal matrimonio e l'uomo che per me è sempre stato mio padre, perché l'ho sempre visto accanto a mia mamma, era il papà di mia sorella, il papà genetico di mia sorella, ma non il mio. E comunque lui è e rimane l'unico padre che io abbia mai avuto. Questo è quello che mi è rimasto da questa perdita dell'innocenza. Ho scoperto che i legami affettivi sono molto più importanti dei cognomi. E mi dite nulla, mi dite che non è una scoperta straordinaria o, ribadire, interessante dell'evoluzione del nostro costume anche in pochi anni. Oggi si tende a demonizzare il politicamente corretto, posso essere anche d'accordo nelle sue aberrazioni più estreme, nella sua ipocrita applicazione da chi non incarna il principio della pietas verso l'intero genere umano, faccia abbastanza ribrezzo. Ma immaginate quanto si è fatto avanti nel progresso e nella civiltà. Questa ragazza viene chiamata figlia di puttana dai suoi compagni di classe, oggi è una signora che ha un'età media, quindi non parlo di tanti anni fa, potrebbe essere 20 anni fa che è accaduto questo, semplicemente perché? Perché era figlia, come si dice, di secondo letto, di una madre nubile che si è sposata con un uomo, oppure è andata a convivere con un uomo che aveva già delle figlie. La storia d'amore di queste due persone ha messo insieme una meravigliosa famiglia fatta di figli di uno e di figli dell'altro, che sono fratelli a tutti gli effetti, hanno vissuto a tutti gli effetti l'affetto, l'amore e anche i contrasti probabilmente ci sono in qualsiasi famiglia. Ma ciò per la ipocrita lettura del benpensantismo diffuso, ciò era detestabile. Quindi lei era la figlia di puttana. I bambini dicevano alla loro compagnetta di scuola quello che magari dietro le spalle dicevano le altre mamme alla mamma di questa ragazza. Ci sentiamo tra un istante. Melog. Ma io mi discosto un attimo dal tema amoroso e vorrei portare la mia testimonianza, la menzogna che ci diciamo tutti i giorni quando andiamo al supermercato e compriamo certi prodotti pensando che magari non siano dannosi per l'ambiente o magari certi animali non soffrano a stare imprigionati tutta la vita in delle gabbie per darci il loro prosciutto. Ecco, questa è una menzogna che secondo me la gente si racconta giornalmente e in fondo sa che è una menzogna, però per una piccola comodità preferisce magari mettere in secondo piano il benessere animale o il benessere della natura, perché insomma essere critici con se stessi è sempre difficile. Siamo in un altro ambito, espresso sempre secondo la formula dei 30 secondi, che è quello della menzogna. La menzogna è un termine anche questo elastico, duttile, che si adatta all'epoca in cui si produce, si adatta alle tecnologie di trasferimento della realtà e di immagazzinamento delle informazioni, secondo appunto il tempo in cui queste vengono messe in atto. Il senso di menzogna oggi, in cui ogni realtà non è scritta concretamente su supporti materiali, ma è soggetta a velocissima, immediata mistificazione, alterazione, sovrascrittura, la menzogna è un termine molto più elastico rispetto a quello in cui si diceva scripta manent. Oggi nulla rimane di ciò che è scritto, può essere sovrascritto continuamente. Quindi, per il meccanismo di cui parlavo poco prima, mi sono appassionato a verificare quella che è la misura media della percezione della menzogna in questa epoca e nel pubblico che ci ascolta. Allora, io ho la vita completamente rovinata dall'essere costretto a dire la verità, perché purtroppo, come pochi italiani, sono affetto da una patologia neurologica che si chiama paresia, che dal greco appunto vuol dire dover dire la verità, e non arrivo a dire bugie, quindi mi capitano delle situazioni sociali in cui faccio delle figuracce orrende, come ho fatto questo Capodanno, e non ne esco fuori perché rovino tutti i rapporti sociali che ho, ed è una cosa veramente terrificante. Guardate come cambia la percezione pubblica della menzogna. I rapporti sociali sono il più grande fluidificatore tra esseri umani, sono composti da una serie infinita e dettagliata di strategie per poter avere rapporti con gli altri. La parola strategia in sé già implica comunque un senso di artefazione dell'immediatezza della realtà. Io devo essere gentile, devo essere cortese, devo essere attento, devo occuparmi degli altri, devo mettere gli altri a loro agio, che è una grande fatica, è frutto della nostra civilizzazione, fa parte del benessere generale a cui tutti dobbiamo, noi civilizzati, contribuire o cercare di contribuire. Però questo comunque richiede un alto tasso di alterazione di quello che è il nostro atteggiamento verso il nostro prossimo. Ma questo è immancabile. Soltanto da questa condizione di necessità di essere strategici verso il nostro prossimo si esce attraverso una finestra che viene definita una patologia, come dice il nostro ascoltatore. Il nostro ascoltatore dice quello che pensa. Il nostro ascoltatore è il prototipo dell'essere umano sincero. La sincerità che viene accarezzata, idolatrata, vezzeggiata, portata sugli altari come un valore assoluto, il valore della verità, in realtà è qualcosa che è molto relativo, e alla verità ci si arriva soltanto attraverso una condizione che viene giudicata malata. Rappresenta il massimo livello della verità una persona che per la società è considerato un malato, una persona con un problema psichiatrico. Tutto nasce dal fatto che mia figlia ha cominciato a voler desiderare un cane, che era impossibile tenere in quanto in casa non c'è mai nessuno. All'inizio la mia bugia non era ancora ben congegnata, diciamo che ho fatto leva sulla sensibilità di mia figlia dicendo che il cane da solo non poteva stare, avrebbe sofferto. Passano gli anni, ho pensato a questo punto di tirare in là. Avrei dovuto andare in pensione dopo 6-7 anni, ho detto guarda, quando vado in pensione ti prenderò il cane. Sfortunatamente l'azienda mi ha anticipato la pensione, mi sono trovato con dopo 3 anni a dover risolvere il problema. La bugia ha dovuto continuare, mi sono alzato tutte le mattine dicendo che andavo a lavorare per 2 anni, finché mia figlia non è riuscita in qualche modo a trovare l'amicizia, a uscire e a dimenticarsi di questo problema. Oggi penso di aver mantenuto la bugia, e la verità invece era che non volevo avere rotture di palle con il cane. Guardate quale fantastico paradosso abbiamo lambito con la storia di questo ascoltatore, che può sembrare banale, dice vabbè, un signore non voleva comprare il cane alla figlia, si è inventato questa cosa. Guardate la finzione di un lavoro che perdurava in un momento in cui il prestigio sociale, l'autorevolezza familiare di un padre di famiglia si mantiene proprio sul fatto che abbia un lavoro, che sia un importante motivo di reale, concreto supporto alla sua famiglia. Normalmente quando un uomo perde il lavoro può simulare che il lavoro continui, per la vergogna immensa che socialmente procura il fatto che non si lavori, si sia perso il lavoro per qualunque ragione. E tutta una narrazione parla di uomini che fingono di andare a lavorare ogni giorno quando quel lavoro non lo hanno più. Ma addirittura nella metafora grottesca del lavoratore, che è quella della storia di Fantozzi, Fantozzi stesso va a lavorare quando va in pensione, perché è condizionato in maniera patologica dai rituali e dalle liturgie aziendali. Beh, quest'uomo mette su in scena questa pantomima per due anni, dice la figlia che andrà a lavorare, semplicemente perché non vuole onorare una promessa, non vuole un cane in casa. Oggi avere un animale in casa è considerato molto più che un desiderio di affettuosità, di avere un amico a quattro zampe, no, è come l'acquisizione di un altro essere senziente che diventa parte fondamentale della famiglia. È un po' se, come quest'uomo si fosse opposto a un ampliamento della famiglia, quasi che non volesse, non dico un altro figlio, ma un altro figlio adottivo, perché quello è oggi un cane in una famiglia. Per lui era talmente forte l'avversione a questa condizione che è costata 2 anni di pantomima di uscire ogni mattina fingendo di andare a lavorare. Avevo 21 anni, quindi ero molto giovane, e avevo desiderio di cambiare lavoro. Vedo un annuncio che cercano un progettista informatico specializzato, io non lo sono, ma decido di banfare. Quando vado al colloquio mi prospettano un trattamento economico interessante, io accetto. E poi ovviamente mi ritrovo che non sono quello per cui mi sono venduto. Morale, dopo 3 mesi non vengo confermato. Questo è un altro esempio ordinario in cui la menzogna, ma non tanto la menzogna, la ingegnosa invenzione di attribuirsi qualità professionali e curriculum che in realtà non si possiede, è in fondo quasi una doverosa, per quanto truffaldina, necessità per ottenere un posto di lavoro. Qui la menzogna in parte viene, non dico giustificata, perlomeno passa come un peccato più veniale rispetto a una menzogna grave, se poi la persona che non aveva quelle competenze riesce velocemente ad acquisirle, riesce velocemente a compensare quello che a lui mancava per quel posto di lavoro che comunque ha strappato una persona che magari aveva più competenze. Ma dunque, io sono un formatore di alta formazione e ho iniziato però questo lavoro 6 anni fa grazie a una bugia. La bugia era che c'era un'azienda che cercava per l'appunto un docente con determinati titoli che ovviamente non possedevo. Presentai un curriculum ovviamente condito anche di un paio di referenze di amici imprenditori che mi lantavano che io fossi un grande conoscitore della materia, e grazie a questo poi effettivamente ottenni l'incarico. La cosa divertente qual è? La cosa divertente è che mi trovai di fronte a un plotoncino di 6 discenti, dei quali praticamente c'era soltanto uno, ma praticamente sgamato. Io riuscii comunque a fare la docenza, portando a casa anche i complimenti, con un semplicissimo trucco, ovvero quello di farli parlare moltissimo, di prendere per l'appunto quello che era più sgamato dei 6 e fondamentalmente di far condurre a lui, seppur in maniera indiretta, tutta quanta la docenza. Questo è un altro ambito sempre relativo più o meno a quello che ci dicevamo con l'ascoltatore precedente. Esiste nell'ambito del lavoro una zona abbastanza grigia e incerta, che sono quei lavori in cui è possibile simulare, millantare. Se fosse stata richiesta una competenza di tipo tecnico, un informatico, un ingegnere, un programmatore, un progettista, sarebbe stato un pochino più difficile inventarsi, ma esiste un campo, quel campo comunque, diciamo, della formazione in generale, in cui probabilmente se uno è molto abile riesce a usare bene le informazioni che velocemente elabora e processa delle persone gli danno, riesce a ottenere quel posto, e per una sorta di istintiva capacità comunque di usare bene le parole, di gestire comunque i rapporti, di dare direttive nella miglior gestione, nella risoluzione dei problemi, nell'abbattimento delle difficoltà tra esseri umani, e probabilmente riesce a farcela. In questo caso una menzogna, ma fino a un certo punto menzogna relativa, è uno spiritoso e intelligente adattamento alla realtà, alle proprie esigenze. Melog. Ok, allora avevo 10 anni, ero con i miei genitori in un borgo in Toscana, 100 anime, compreso le galline e conigli, e i miei genitori mi hanno rimproverato e io mi sono voluta allontanare per punirli. All'inizio del paese c'era un grosso albero di castagno in cui mi ci sono rifugiata, c'era proprio un antro. Forse mi sono addormentata e sentivo chi mi cercava, io ne godevo. Mi sono addormentata e sono rientrata perché avevo fame. Il tema questa volta era la fuga. Oggi sembra quasi impossibile fuggire. Siamo tracciati in ogni istante della nostra esistenza. Molte volte questo tracciamento è inconsapevole, non ce ne rendiamo nemmeno conto. Altre siamo noi stessi a dare volentieri le indicazioni di quello che facciamo, dove andiamo, in che maniera ci rapportiamo con il territorio, dove ci fermiamo, quale strada facciamo. E la prima a rispondere è stata una signora che racconta una fuga molto analogica e molto nei canoni della tradizione. Il bambino che, per rendersi interessante e importante all'occhio dei genitori magari distratti, scappa, fugge, ma il suo limite di sussistenza è molto limitato e quindi si farà trovare quanto prima. Prima fuga, 17 anni, la piccola Sanremo mi stava stretta, via di corsa a Milano, dove il colpo d'occhio di prospettiva e dimensione dei palazzi mi è sembrato quello che adesso mi può sembrare Dubai. Qualche anno a Milano, ma richiamo del mare, soprattutto dell'odore del sale, e mi ha riportato sulla costa, dove ho incontrato una donna veneta che a sua volta mi ha riportato in Padania, ma adesso assieme, dopo 20 anni di matrimonio, sogniamo insieme, un domani comunque, insieme ai figli, di tornare al mare. Altra fuga dalla provincia. Situazione conosco molto bene. Nascere in provincia può essere un inferno, può essere una gabbia dalla quale non riusciamo mai a mettere il naso fuori, può essere una mucillagine eterna che condiziona la nostra esistenza, può essere anche un grande motore, un grande propulsore a uscire dagli spazi angusti e avere la rabbia poi di conquistare spazi più ampi, forti però di quell'esperienza di vita particolare, fuori dall'ordinario, meno frequentemente condivisa dalle persone che normalmente sembrano essere quelle che segnano i canoni essenziali oggettivi che in qualche maniera regolano l'andamento della società. Torniamo indietro di un bel 25 anni, una fuga in motorino fatta al contrario di Fabrizio che ha chiamato prima, da Milano fino alle Ligure, per sfuggire un po' a quelle che erano le situazioni, le dinamiche scolastiche, il carico di responsabilità che avevo. Ho preso il motorino senza telefoni perché non c'erano i cellulari all'epoca e affrontato il viaggio da Gorgonzola fino a Finale Ligure, fino a rimanere là per un paio di giorni e poi dopo necessariamente dovermi far venire a prendere. Anche qua un'altra fuga adolescenziale, sempre da un luogo angusto, sempre da un luogo limitato, sempre nell'anelito che nell'altrove sia la soluzione, la chiave, l'orizzonte più impercorribile dei nostri sogni e delle nostre aspirazioni, ma quando ancora il filo che ci sostiene, il cordone ombelicale immaginario non è stato reciso, alla fine sempre a casa bisogna tornare perché sono quelli che bene o male ci mantengono in vita. stiamo parlando della Francia, un paesino in montagna. Durante le vacanze avevo 4 anni, sono le anni 70. Sparisco con 4 mucche, un pastore che stava passando per la strada, e così per un'oretta i miei mi hanno cercato. È stata la mia prima fuga, e con tanto disagio e paura dato ai miei genitori. E con un grande spirito di libertà e di aver voglia di fare quello che volevo. A me colpì molto la storia di questa signora con l'accento francese, e ancora mi faccio delle domande. Sì, perché sembra un po' la trama di quei romanzi d'appendice ottocenteschi in cui c'era sempre qualcuno che prendeva dei bambini e li portava verso una vita avventurosa. Certo è che un pastore con 4 mucche prende una bambina raccolta per strada e la porta con sé. È inquietante, fa pensare. Persona che poi alla fine non ha fatto niente di male, ma solo il fatto che abbia accettato di portare nella sua carovana una bambina sola, se l'è portata dietro. Chissà cosa ne avrebbe fatto. Una saltimbanca, un artista, avrebbe insegnato arti marziali impensabili, sarebbe stato per lei maestro di vita, o semplicemente gli serviva una mano d'opera gratuita per mungere le sue mucche. Noi abitavamo in campagna, avevamo un babbo un po' manesco, gli partivamo bene le sberle, 2 sorelle, la mia sorella più piccola, io le prendevo sempre, tutte le volte, mia sorella mai, e le prendevo senza reagire alla fine, perché tanto mi toccavano. Un giorno mi sono stancata, ho preso e ho cominciato a correre come una lepre, correvo e mi nascondevo, mio padre mi ha preso lo stesso. Ne ho prese più di prima, però non ho pianto, l'ho guardato quasi con sfida, sono stata contenta, non siamo mai andati d'accordo, gli ho voluto sempre bene, per carità, però da quel momento sono sempre stata la figlia, diciamo, quella che batte al contrario, roba così, ecco. Questa signora riesce a ridere del padre che la riempiva di botte. Questo mi fa riflettere, mi fa pensare, una signora vivente, avrà un'età nemmeno troppo avanzata, ha memoria storica di un padre che la picchiava. La picchiava duramente, non per scherzo, non in maniera simbolica, tanto che scappa di casa e quando la riprende la riempie di botte di nuovo, perché era la maniera per affermare la sua autorità e la sua esistenza come padre. E nonostante questo, nonostante le botte che si è preso, dice: ma in fondo gli volevo bene. Ecco, questo è il lato pericoloso. Una bambina che si abitua a voler bene a chi la picchia, crescendo, riuscirà probabilmente con difficoltà a rendersi conto che l'uomo che la picchia non è certo un uomo a cui si può voler bene. Ecco, questo tipo di circostanza, che è la chiave di uno dei più grossi paradossi della nostra civilizzazione, che ancora non si renda conto come mai esseri umani elaborati, emancipati, considerano un loro possesso un altro essere umano, reagiscono con violenza al distacco dall'altro essere umano, dall'autonomia all'altro essere umano. Ecco, le radici in tutto questo ci stanno in questa telefonata, in questa signora, bambina che scappa dal padre manesco, ma quando la riprende la riempie di botte e con nostalgia dice: io quel papà volevo bene.